l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia, eccoci qua con l'altra Europa in diretta dagli studi di Milano di Radio 24, il nostro appuntamento settimanale in queste ore, mentre l'Europa guarda quello che sta accadendo in Italia, noi come sempre guardiamo l'Europa, lo facciamo cercando anche altri punti di vista, un programma in collaborazione con Euronet Plus. Vi ricordo le coordinate, come sempre potete seguirci anche via Facebook, facebook.com/l'altra Europa, oppure su Twitter, l'account è il mio personale, Federico Taddia, piazze virtuali, che andiamo ad aggiornare minuto per minuto con tutti i link relativi così agli argomenti che sfioriamo. Partiamo proprio da Euronet Plus, lo sapete, ogni settimana un argomento comune, cerchiamo di approfondirlo, cerchiamo di portare così quelle che sono le varie posizioni, cerchiamo di approfondire quello che è l'argomento proposto, e oggi si parla di cibo. Where'd you find that cookie, Reggie? Can you tell me? I was standing by the street, I saw it lying at my feet. Should we eat it? What do you say? No! Where'd you find that cookie, Reggie? Can you tell me? I was sitting in my favorite seat when I saw this crusty treat. Should we eat it? What do you say? Yeah? No! The Cookie Dance Song, una canzone per bambini, sì. Parla dell'importanza di capire da dove arrivano i biscotti, non per non prendersi sul serio, ma oggi vogliamo andare a sfiorare, andiamo a toccare uno di quegli argomenti che di fatto così accompagnano il nostro rapporto con l'Europa, cioè nella nostra quotidianità l'Europa quanto entra, cosa fa, dove agisce, quanto può essere incisiva. E il cibo è sicuramente un argomento sensibile, perché l'Unione Europea, la Commissione, tanto ha fatto e tanto fa per garantire la sicurezza, non solo per fare denuncia, non solo per fare proclami, ma c'è veramente tutta una serie di, ci sono una serie di procedure che accompagnano il cibo che arriva alle nostre tavole. E oggi vogliamo proprio ribaltare la situazione, quindi guardarla dal punto di vista dei consumatori. L'Unione Europea e le regolamentazioni sulla sicurezza del cibo sono abbastanza efficienti per proteggerci, per proteggere noi cittadini, noi consumatori? Di tutto questo ne parliamo con Paola Testori Coggi, che è direttore generale del DG Salute e Consumatori della Commissione Europea. Buongiorno Paola, benvenuta all'Altra Europa. Buongiorno. Lei quando si siede a tavola si sente sicura? Io mi sento sicura perché in Europa la situazione è la migliore al mondo. Mi sento di dirlo perché dal mio osservatorio posso, cioè conosco le regole, conosco i controlli e posso dire ai consumatori che noi siamo la zona al mondo dove il cibo è il più sicuro. E tutto questo, se ho capito bene, senza seguire lunghe procedure burocratiche, nel senso che c'è un sistema di allerta rapida che è veramente veloce e dovrebbe essere anche veramente funzionante. C'è un sistema di allerta che funziona, ma prima dell'allerta ci sono una serie di norme che vengono rispettate a livello di tutta la catena alimentare, cominciamo dagli allevamenti, dai pesticidi utilizzati nei campi, e queste norme sono omogenee per l'Europa. Gli stati, le autorità degli stati controllano e fanno migliaia di test, ed è appunto quando uno di questi test scopre, di questi controlli scopre una contaminazione o scopre una frode, perché purtroppo ci sono frodi, ecco che scatta il sistema di allerta che collega contemporaneamente tutti i 27 paesi, così che tutti possono intervenire e identificare, diciamo, e conoscere, tracciare i prodotti contaminati e ritirarli dal mercato. L'ultimo scandalo noto è ovviamente quello della carne di cavallo. Tutto quello che doveva funzionare ha funzionato in quella situazione? A livello dei controlli ha funzionato, perché diciamo sono stati dei controlli di routine che erano stati fatti in Inghilterra, che hanno identificato questa frode, e quando si è conosciuto, cioè purtroppo la frode è successa, cioè quindi c'erano dei prodotti fraudolenti sul mercato, ma quando si è saputo e noi abbiamo fatto scattare il nostro sistema di allerta, nel giro di qualche giorno abbiamo identificato quali erano quei lotti distribuiti fraudolenti. E poi abbiamo deciso di fare un controllo a tappeto per un mese in tutti i 27 paesi, i cui risultati li abbiamo resi pubblici qualche giorno fa. E tanta importanza è data alla tracciabilità, perché parte da lì la filiera della sicurezza anche. Ma oggi Paola, qual è il vero nemico della nostra sicurezza a tavola? Sono i prodotti d'origine? Vero nemico della sicurezza, noi possiamo dire che fino adesso noi abbiamo concentrato molto i nostri controlli sulla sicurezza, cioè la presenza di contaminanti, la presenza di residui di pesticidi, la presenza di sostanze proibite. E da questo punto di vista mi sento dire, come ho detto, che noi abbiamo una situazione molto sicura e ottima rispetto anche ad altre parti del mondo. Quello che queste analisi e questi controlli che abbiamo messo in luce è che invece c'è a volte a livello della qualità, qui si trattava di carne di cavallo che veniva venduta come carne di manzo, ecco, quindi è la qualità, non è la sicurezza, perché la carne di cavallo è una carne buona, però è una carne che costa meno, quindi a livello della qualità dobbiamo aumentare anche i controlli, perché forse ci sono dei problemi di frode. E perché gli operatori economici, chiaramente a volte quelli più quelli che vogliono frodare, frodano sulla qualità. La carne di cavallo, il caso della carne di cavallo appunto è arrivato su tutti i giornali, ma ci sono tanti altri casi di cui noi non veniamo a conoscenza. Le vostre scrivanie sono colme di documentazioni o tutto ciò che accade lo conosciamo? Tutto ciò che accade lo si conosce, sì. Perché le nostre allerte sono pubbliche, vengono pubblicate sul web, quindi tutto ciò, quando un controllo, quando un'analisi di un paese, Italia, Francia o Germania, scopre che c'è la presenza illecita o la presenza anche in questo caso di sostanze non della qualità che era prevista, immediatamente l'informazione è data al pubblico. Quindi la reazione del consumatore è vero, è difficile, io cerco di convincere, quando c'è una frode come c'è stata per esempio nel caso di alcuni prodotti biologici recentemente in Italia, con i controlli hanno scoperto dei prodotti biologici che non erano in realtà biologici, anche lì immediatamente si è saputo e siccome abbiamo sistema di tracciabilità si ritira dal mercato tutto ciò che non è legale, che non è corretto. Paola, un ultimo consiglio proprio da dare ai consumatori, da dare ai cittadini, senza creare allarmismi, perché alla fine anche lì è inutile, però se uno ha una denuncia da fare o sospetta che ci sia una frode, un'illegalità, come si deve muovere, a chi si deve rivolgere in prima battuta? Si deve rivolgere a qualsiasi autorità locale, regionale o nazionale o anche al nostro, noi abbiamo un sito web, possono rispondere, perché attento, ecco cosa il consumatore deve fare, il consumatore deve leggere le etichette, deve essere attento, se c'è un cibo avariato, se c'è un cibo che lui considera che non è della qualità, lo deve subito denunciare, perché così noi possiamo seguire e intervenire. Grazie davvero a Paola Testoricoggi, direttore grazie generale voi, di Salute buongiorno. E Consumatori della Commissione Europea. Buongiorno e buon sabato. Buongiorno. Europost-it. Nuovi diritti per chi viaggia in bus in Europa. Viaggiate in pullman attraverso il vecchio continente? Conoscete i vostri diritti? Il regolamento dell'Unione Europea che tutela i viaggiatori si estende anche a chi si sposta in autobus, stabilendo i diritti fondamentali dei passeggeri e imponendo una serie di obblighi alle società di trasporto e ai gestori delle stazioni. Tra i diritti sanciti c'è prima di tutto il divieto di discriminare i viaggiatori disabili e stranieri, alcune norme minime in materia di informazioni ai passeggeri e l'obbligo di approntare un sistema per la gestione dei reclami accessibile a tutti. Previsto anche il rimborso del prezzo del biglietto o il reinstradamento in caso di overbooking, cancellazione o ritardo superiore a 2 ore rispetto all'ora di partenza prevista, ma solo per distanze superiori a 250 km. Per tutti i dettagli, collegatevi al sito ec.europa.eu/transport e cercate Passenger Rights. Eccoci qua ancora in diretta con l'altra Europa, in questo 2013 anno europeo dei cittadini, in questo 2013 dove anche noi cerchiamo di portare avanti la nostra campagna personale sul senso di appartenenza all'Europa. E ogni settimana diamo voce a una personalità di spicco del nostro panorama culturale per avere proprio la sua idea d'Europa e oggi vogliamo mettere al centro la cultura, questa cultura soggetta a tagli continui, non solo nel nostro paese ma anche a livello europeo, questa cultura che viene sempre messa ai margini su quello che invece dovrebbe essere un motore identitario della nostra Unione. E per parlare di Europa e di cultura con orgoglio vi presento la nostra ospite, la scrittrice più tradotta al mondo, diamole, la scrittrice italiana più tradotta al mondo, diamole benvenuto a Dacia Maraini. Buongiorno Maraini. Buongiorno a voi. Grazie intanto, so che è una telefonata un po' travagliata, vero? Ho dovuto chiedere un cellulare in prestito. Purtroppo sì, perché il mio telefono si è rotto e sono in treno e ho incontrato un signore gentilissimo, un siciliano che tra l'altro è un critico d'arte, stavamo parlando d'arte insieme e gli ho detto: senta, sia così gentile, mi presta il telefono. E lui è stato gentilissimo. Bene. Mi ha prestato il telefono. Questa solidarietà che ancora c'è, grazie davvero. Dacia, lei ha viaggiato tantissimo in tutto il mondo e anche in Europa, nel suo albero genealogico anche ci sono radici europee oltre che strettamente italiane. Qual è il suo concetto d'Europa? Che cos'è secondo lei l'Europa oggi? Guardi, secondo me nel momento in cui si va fuori dall'Europa ci si sente europei. Io me ne accorgo quando sono in America, quando sono in America Latina, quando sono in Estremo Oriente, che non solo le persone si riferiscono a me come, più che italiana, come europea, sì, ma io stessa mi sento parte di una cultura, di una radice che è europea. Mm-hmm. Insomma, quindi vuol dire che c'è, non è solo una cosa, un'unione economica, non è solo un qualcosa scritto no, sulla carta. L'unione economica forse è l'ultima delle cose. Io credo che noi abbiamo una geografia mentale in comune, abbiamo delle riferimenti che cominciano dalla Grecia, poi linguistici anche, perché tutte le nostre lingue sono di origine latina, e poi abbiamo in comune una letteratura, una pittura, una musica che sentiamo nostra, e è questo che ci rende simili. Il denaro viene dopo, e secondo me è anche giusto che ci sia, anche se di fronte a una crisi si creano delle opinioni, diciamo così, anche autodistruttive, voler andare ognuno per conto suo, ognuno dà la colpa all'altro della crisi, però prima di tutto c'è un'origine comune culturale. Ecco, e questo è quello che ci rende europei. La parola cultura che ritorna nelle sue riflessioni, la parola cultura che viene massacrata, tra virgolette, soprattutto in tempo di crisi. Italia e la cultura, sì, sono all'ordine del giorno, qual è la sua denuncia? Secondo me è un errore gravissimo, perché la cultura è quello che ci unisce ed è quello che, fra l'altro, io, contrariamente a quello che si pensa comunemente, penso che la cultura invece è quella che ci dà non solo identità ma anche possibilità di lavoro nell'eccellenza, perché se noi ci mettiamo in competizione con la Cina sui prodotti industriali non possiamo che perdere, ma se ci mettiamo in competizione sui nostri prodotti culturali, stiamo parlando di architettura, di design, di pittura, di letteratura, di musica, allora lì abbiamo l'eccellenza e possiamo competere con chiunque, e dovremmo investire su quello, non sui prodotti commerciali più economici, perché su quello ci batte chi paga naturalmente in maniera molto sleale, paga i suoi operai a 2 euro l'ora, per dire. Certo. Maraini, un tema a lei caro da sempre, ovviamente, quello del ruolo della donna. Ha fatto riflessioni anche sul ruolo della donna in Europa, perché ci sono grosse differenze di approccio, grosse differenze culturali. Cosa si dovrebbe e cosa si potrebbe fare oggi, secondo lei, in Europa per le donne? Ma guardi che grandissime differenze non ce ne sono, naturalmente c'è una maggiore concentrazione così di una tradizione cattolica più repressiva nei riguardi delle donne, però poi l'Europa è abbastanza coesa da questo punto di vista, le leggi adesso sono abbastanza simili, basta andare un po' fuori dall'Europa e vedere che differenza fondamentale c'è anche nei riguardi dei diritti, diritti civili, diritti umani, diritti alla scelta, all'autodeterminazione. Questo credo che sia evidente. Prima di salutarci, Marini, un'ultimissima domanda. L'Europa che vorrebbe? Sarebbe un'Europa di che tipo? Ma io penso che l'Europa c'è, quindi non è che dobbiamo per forza costruirla, c'è. Però cioè, bisogna riconoscerla, darle un prestigio, un piacere di essere europei e poi naturalmente cercare di abbinare questo aspetto culturale con un aspetto anche economico che ci deve essere, cioè dobbiamo trovare una soluzione alla crisi che non sia solo punitiva ma che sia di crescita. Grazie davvero a Dacia Maraini, buon viaggio, grazie a lei, grazie anche al suo compagno di viaggio che le ha prestato il cellulare. Grazie a lui, grazie, arrivederci. Buon sabato. Europost-it. Barcellona apre il nuovo Institute of the Arts. Volete formarvi nel campo dello spettacolo ma non volete trasferirvi oltreoceano? La prima scuola internazionale di arti performative dell'Europa continentale aprirà i battenti a luglio a Barcellona, con una proposta unica per l'istruzione superiore in recitazione, danza, musical, popular music, stage management, imprenditoria artistica e produzione cinematografica. L'istituto è stato fondato da Gilles Auckland Lewis ed è stato ispirato e supportato nella fase iniziale dal Liverpool Institute for Performing Arts di Sir Paul McCartney. Tutti i corsi si terranno in inglese, tranne alcuni mini corsi della Summer School che si terranno in spagnolo. Per informazioni e iscrizioni, iabarcellona.com. Questi sono i nostri Europost-it che vi ricordo potete ritrovare sul nostro sito radio24.it oppure sulla nostra pagina facebook.com/l'altra Europa oppure ancora su Twitter, l'account, il mio personale, Federico Taddia. Dacia Maraini con noi ha dato il suo contributo all'idea d'Europa. Mi è piaciuta molto la serenità, anche un sano distacco, nessun facile entusiasmo, ma un bel realismo. Si parte dalla cultura, ma pensando anche all'economia, credo che sia uno stimolo interessante, moderno anche, quello che ci ha dato la Maraini. Questa Europa che tenta anche di allargarsi, questa Europa che vedrà presto l'ingresso della Croazia, questa Europa che ieri ha visto anche stringere un accordo definito storico, un accordo tra Serbia e Kosovo per normalizzare le relazioni tra i due paesi, potrebbe essere così una prima apertura della strada per Belgrado verso l'Unione Europea. Per capire quello che è successo, ma per avere anche una fotografia dettagliata della situazione, anche per noi, di fatto, non addetti ai lavori, abbiamo invitato Matteo Taccone, un giornalista freelance, collaboratore dell'Osservatorio Balcani e Caucaso e del quotidiano Europa, esperto appunto dell'area balcanica. Ciao Matteo, benvenuto. Buongiorno. Accordo storico, parola grossa, storico si può definire in questo modo quello che è accaduto tra Serbia e Kosovo? Andrà verificato nei prossimi tempi, bisognerà capire se questo accordo terrà sul campo. In ogni caso è la prima volta che Pristina e Belgrado si siedono a un tavolo faccia a faccia con i rispettivi primi ministri e arrivano a un'intesa, insomma, quindi cioè già questo mi sembra un grosso passo in avanti. Fondamentalmente, per capire quello che è successo ieri, grazie alla mediazione europea, questo va detto, bisogna forse fare un rapidissimo passo indietro, considerando che dopo la fine della guerra, 1999, tra Serbia e Kosovo, la parte nord del Kosovo è sempre rimasta a maggioranza serba e lì Belgrado ha continuato a esercitare un controllo di sovranità, di fatto, con le cosiddette istituzioni parallele che sono scuole, amministrazione pubblica, moneta, polizia. Questa situazione è proseguita anche dopo che 5 anni fa il Kosovo ha dichiarato unilateralmente l'indipendenza. Questo di fatto significa che il nord del Kosovo è rimasto Serbia e il Kosovo, stato più o meno indipendente, non ha mai potuto esercitare la sovranità in queste aree. L'accordo di ieri sblocca questa cosa. Fondamentalmente i serbi del Kosovo, che sono una minoranza, 100.000 persone circa a fronte di 2 milioni di abitanti dell'ex provincia serba, appunto, riescono a ottenere un'ampia forma di autogoverno, con delega su materie importanti come l'istruzione, lo sviluppo economico, la sanità. In cambio smantellano le loro strutture di polizia, le fanno confluire in quelle kosovare, in cambio di un comando serbo che rimane nell'area nord del Kosovo. Però di fatto, ecco, si pongono le basi per, si può dire che in una certa misura, facendo così, la Serbia ammette l'esistenza delle autorità del Kosovo, cosa che non ha mai fatto né ancora farà a livello formale, però de facto lo sta facendo, e il Kosovo in cambio recupera una parte della sovranità su tutto il suo territorio. Quindi diciamo il negoziato, questo è il punto fondamentale, non ha visto vincere nessuno ma nessuno perde, entrambi fanno un passo in avanti, perché così facendo la Serbia, come tu dicevi, sblocca il suo cammino verso l'Unione Europea, perché nei prossimi giorni, nelle prossime settimane otterrà l'apertura dei negoziati per l'accesso all'Unione Europea, mentre il Kosovo, che è ancora molto indietro sul piano dell'integrazione, però potrebbe ottenere un'agevolazione sul regime dei visti, che sembra una sciocchezza ma è una cosa importantissima, perché cioè in Kosovo c'è una disoccupazione del 45-50% e per i kosovari stare chiusi, blindati in casa, dentro i propri confini, significa essere condannati all'impotenza socio-economica. Certo, insomma. Ecco, allora salutiamo Matteo a questo punto, cercheremo di proseguire un po' questo cammino anche noi insieme a Kosovo e Serbia. Adesso parliamo ancora di memoria, parliamo ancora di quella che era l'Unione Sovietica. Il valore della memoria per costruire una identità nuova. L'Unione Europea nasce anche dai resti di quella che è stata la nostra storia. Ci ha incuriosito molto un reportage fatto da una studentessa Erasmus, studia ingegneria civile al Politecnico di Torino, ora si trova a Vilnius, e ha fatto questo reportage perché Erasmus è anche questo, non è solo fare un'esperienza universitaria, ma anche fare una esperienza di vita. E proprio a Vilnius, che è stata capitale della cultura nel 2009, questo progetto di capitale della cultura che ogni anno mette al centro un paio di città europee sulle quali investe proprio su passato, presente e futuro dell'Europa, è uno dei progetti realizzati in occasione dell'anno europeo della cultura è stato quello di costruire un museo sotterraneo del socialismo, dove di fatto vivere in prima persona, mettere il proprio corpo al servizio della memoria. È un tour, si intitola 1984 Survival Drama, ed è il dramma della sopravvivenza che Patrizia Vitale ha vissuto in prima persona. Ciao Patrizia, benvenuta all'Altra Europa. Buongiorno a tutti. Sei stata deportata di fatto. Patrizia? Pronto? Pronto? Pronto. Dicevo, sei stata deportata. Sì, esattamente deportata, questa è la parola giusta. Infatti è un programma, diciamo così, è un progetto che rientra in quello che è stato chiamato giorno della deportazione. E questo bunker sovietico è stato ristrutturato, è stato ripreso dopo il suo abbandono da parte delle truppe sovietiche, e la fondatrice di questo progetto, che si chiama Ruta Vanagaite, ha ben pensato appunto di introdurre i giovani non solo lituani ma anche stranieri, proprio come me, nella storia della Lituania. Ecco, è un bunker che è stato di fatto riorganizzato, è stato recuperato dal punto di vista turistico, però non fai una normale visita, cioè ti fanno proprio vivere l'esperienza. Esatto, ecco, la cosa bella e un po' interessante è proprio questa, che quando si mette piede nel bunker si diventa proprio prigionieri, ti viene anche assegnato un numero di matricola e da quel momento diventi proprio un deportato e devi sottostare alle regole del bunker. E la cosa che mi ha proprio un po' impressionato è stato che dal primo istante ci è stato ordinato di dimenticare il nostro passato e chi siamo noi nella nostra vita reale, proprio perché da quel momento iniziava il nostro addestramento. E questa è una cosa che mi ha molto colpito, perché so che poi sono tutte cose che in realtà poi sono accadute, e il pensiero proprio di dimenticare la mia identità e il mio passato è una cosa che mi ha proprio scioccato, ecco, anche se poi sapevo che era tutta una messa in scena, un gioco, però poi sono cose che mi hanno fatto riflettere. Certo, un progetto di memoria europea attiva, così è stato definito, e tra l'altro l'ideatrice è proprio Ruta Vanagait, che era la direttrice degli eventi in occasione dell'anno in cui Vilnius era capitale europeo della cultura. Tu hai fatto un dettagliato reportage, perché appunto è stata un'esperienza che ti ha colpito molto, ci hai spiegato come sei entrata in questo bunker e come ne sei uscita. Ma allora, ci hanno condotto proprio nel bunker, che si trova più o meno a 5-6 metri di profondità, e stanza dopo stanza ci hanno fatto vivere diverse esperienze. La prima, che è quella indimenticabile, è quella delle maschere antigas. Noi dovevamo essere addestrati a indossare queste maschere in 3-5 minuti massimo, ecco, ed è stato molto molto difficile, ce l'hanno fatto fare più e più volte. Dopodiché il trasferimento da una stanza all'altra avveniva sempre di corsa, dovevamo stare in fila, sempre tutti insomma rigidi, e anche con un passo che poi ci veniva dettato da questo ufficiale russo, che tra l'altro parlava solo russo, ecco. e l'ultima esperienza è stata quella di essere poi stati condotti in una sala, ci è stato poi offerto un pasto caldo e quindi lì abbiamo poi capito appunto che era tutto un gioco, ed è stato molto divertente anche sapere che appunto abbiamo potuto vivere quello che veniva vissuto fino a 60 anni fa, 30 anni fa anche, però tutto in modo scherzoso, tutto in modo giocoso appunto. Grazie davvero Patrizia per questo reportage. Sovietbunker.com è il sito ufficiale per conoscere il bunker. Tu ti trovi ancora a Vilnius in questi giorni? Sì. Sono qui per un anno, quindi terminerò il mio corso di studi proprio qui. Come sta andando questa esperienza Erasmus? Molto bene, devo dire. Mi sento molto molto soddisfatta. Inizialmente ero un po' titubante, perché la Lituania l'ho sempre vista culturalmente molto diversa da un contesto più italiano, diciamo. Però sono molto contenta di essere venuta qua, perché sto proprio imparando tante tante cose sul fatto di essere italiana, ma anche europea, ecco. Da sempre affermiamo che la generazione Erasmus è un po' la colonna importante, la colonna così vertebrale di questa Unione Europea. Te ne senti parte, ti senti di sottoscrivere? Assolutamente. Okay. Sì, assolutamente sì. Andando all'estero ho proprio imparato il significato di Europa, di sentirmi cittadina europea e di connettere la mia cultura con quella esterna, ecco, e anche con quelle più diverse, che hanno avuto una storia diversa dalla nostra. Grazie davvero per questo promo per l'Unione Europea, Patrizia. Ciao. Ciao. Grazie a voi. Ciao. Ciao, buon sabato, grazie. Europostit. L'ultima festa della regina in Olanda. Siete pronti a dare il vostro commiato a una sovrana e salutare un nuovo re? Allora buttate in valigia i vostri migliori abiti arancioni e volate in Olanda. Ancora una volta, il 30 aprile, si terrà la festa della regina, ma quest'anno le celebrazioni segneranno un evento storico. Dopo 30 anni, infatti, la regina Beatrice passerà lo scettro al principe Guglielmo Alessandro e per la prima volta dal 1980 la patria dei tulipani avrà un re. Cambierà così anche la tradizionale festa della monarchia olandese, che dall'anno prossimo si chiamerà il Giorno del Re e verrà celebrata qualche giorno prima, il 27 aprile. Come ogni anno, Amsterdam offre lo spettacolo più grande, con feste, concerti e mercatini fin dalla sera prima, quando le discoteche e i pub della capitale si animano per la Queen's Night. Tutti gli eventi, le news e le informazioni utili collegandosi al sito koninginnedagamsterdam.nl. L'altra Europa. Well, I knew that it was very, very close. The irony here is that it was actually the European Parliament itself that in June last year asked the Commission to come forward with something that would address short-term the surplus in the ETS system. And we did so already in July. And now after 9 months they have decided that they do not want to back what they themselves are after. Quella che state ascoltando, quella che avete ascoltato, è la commissaria Connie Hedegaard, commissaria europea, incaricata dell'azione per il clima, è stata intervistata questa settimana da Gigi Donelli e si diceva delusa della bocciatura del blocco delle quote di CO2. Quello che è successo questa settimana appunto al Parlamento, anche qui sembra una questione per addetti ai lavori, però è una questione che riguarda fortemente il nostro presente, ma soprattutto il nostro futuro. Questa trattativa continua tra il mondo dell'industria e il mondo dell'ambiente. In verità in gioco c'è la sopravvivenza del pianeta, non solo della nostra Europa, ma l'Europa potrebbe giocare un ruolo fondamentale a favore della tutela dell'ambiente, con il rispetto anche di quelle che sono le esigenze dell'economia. Per capire quello che è successo, quelle che sono anche le varie posizioni in campo, c'è con noi Luca Lombroso, che oltre a essere un ottimo meteorologo è anche un perfetto conoscitore di tutte quelle che sono le dinamiche a livello mondiale in campo ambientale. Ciao Luca, ben tornato all'Altra Europa. Grazie, ti risento sempre volentieri, Federico. Allora, cos'è successo? Il Parlamento europeo ha bocciato quella che era una richiesta della Commissione. Ci puoi dare i dettagli? Ma sì, è un tema un po' controverso e non facilissimo, diciamo. L'Europa ha scelto questa, fra le altre cose, per combattere i cambiamenti climatici, la strategia del sistema delle quote di CO2, cioè funzionano un po' come le quote latte sostanzialmente, via che di anno in anno dovrebbero calare le disponibilità di quote, per cui le aziende dovrebbero essere così incentivate a migliorare la loro efficienza energetica e quello che riescono a migliorare lo possono, fra virgolette, vendere sul mercato. C'è invece chi sostiene, io sono un po' più di quest'idea, che sia più efficace una tassazione diretta della CO2, per esempio l'ha adottato l'Australia. Questo sistema ha dato un po' così i suoi limiti come conseguenza della crisi economica. Praticamente che cosa è successo? Le emissioni sono calate così tanto, non per virtù ma per necessità, cioè per la crisi economica, che il prezzo della CO2 sul mercato è crollato, cioè costava negli anni fino al 2007 anche 70-80 euro a tonnellata e adesso è crollata solo 4 euro a tonnellata, quindi ci troviamo in una situazione un po' quasi tragicomica di dover salvare la borsa dell'inquinamento. Quindi quello che chiedeva la Commissione era di fare una sorta di revisione, un riaggiornamento, sì, di questo. Diciamo, non era un intervento economico diretto, da quello che ho capito, perché non è facile, anche se mi sono documentato, l'ho sempre seguita. C'erano 900 milioni di quote che venivano immesse sul mercato in questi giorni e la Commissione chiedeva di rinviarle al 2015, cosa che ritengo che forse da un certo punto di vista, dal momento che questo sistema c'è, forse sarebbe stato anche giusto fare, però ovviamente alle aziende in questo momento conviene, e gli conviene paradossalmente però inquinare, ecco. Il problema è che dovremmo un po' superare questo sistema, anche le grandi conferenze a Copenaghen, poi a Cancun, a Durban, dove ho partecipato, c'erano posizioni diverse sia delle associazioni ambientaliste, alcune a favore di questo sistema, mi sembra, ecco, non vorrei però sbagliare, anche il WWF per esempio, Greenpeace, altre invece che sono contrarie, come Amici della Terra, nettamente contrario il blocco dei paesi latinoamericani, per intenderci Filo Chavez, che diceva, oltre a se il clima fosse una banca sarebbe già stato salvato, che i problemi non si risolvono con gli stessi metodi che li abbiamo creati, diciamo così, insomma, ecco, che e considerano immorale il mercato della CO2, d'altra parte è strutturale il protocollo di Kyoto, quindi è un po' una cosa in cui siamo dentro questo sistema, ecco. Certo. Il limite grosso che ritengo che ha è che se si decide per esempio di ridurre del 20% le emissioni, non si può praticamente, perché appunto salta il sistema, ridurle del 25%, né se diciamo siamo più bravi, né se tantomeno c'è una crisi economica. Mm-hmm. Questo è il limite grosso che ha questo tipo di sistema, insomma. Poi Luca, si è parlato anche, è stato presentato un libro verde sui disastri ambientali collegato a quello che è stato alla consultazione. Di cosa si tratta? Ritengo che siano due cose molto importanti, sono due azioni che ha presentato l'Unione Europea, che comunque è in prima linea sui cambiamenti climatici ed è al fianco dei paesi in via di sviluppo, insomma, perché sono quelli più vulnerabili al clima, così come lo è l'Europa. Sostanzialmente è stata presentata la strategia di adattamento, cioè si dice che purtroppo non siamo riusciti ad agire in tempo, i cambiamenti climatici ci sono già e dobbiamo quindi sostanzialmente investire anche in opere di, diciamo così, sopportare, essere resilienti, si dice, ai cambiamenti climatici, cioè sopportare un evento senza, tra virgolette, collassare. Facciamo un esempio, New Orleans colpita da Katrina, c'è stato un vero e proprio esodo di massa che può portare all'abbandono, al declino, come le civiltà dei Maya. Ecco, essere resilienti significa sopportare un'ondata di caldo senza che tutti scappiamo in montagna, al mare o in altri posti. Ecco, così. Certo. Quindi significa investimenti, però va bene se riusciamo a tenere il riscaldamento globale sotto i 2 gradi, altrimenti non ce la facciamo comunque, no? C'è un numero che sempre cito che è importantissimo: un euro che investiamo nella difesa dalle catastrofi idrogeologiche, pensiamo in Emilia, abbiamo il problema delle frane, le alluvioni sono state in Toscana, adesso è stata una grandinata incredibile in Lombardia, ci sono i mucchi come mucchi di neve, un euro investito ne fa risparmiare 6-7 nelle opere di soccorso, ricostruzione e così via. Ecco, poi a fianco c'è questo libro verde che riguarda più strategie assicurative, diciamo così. Leggevo che appunto uno degli impegni adottati dalla Commissione è quella di incoraggiare gli Stati membri ad adottare per l'appunto strategie di adattamento, perché al momento soltanto 15 paesi ne hanno una, e metterà a disposizione fondi proprio per questo scopo. Sì, fondi anche abbastanza abbondanti ed è anche giusto e necessario. L'Italia lo sta facendo, partita in ritardo, non c'è dubbio, non è fra i 15 che hanno già il piano di adattamento, ma lo sta facendo la comunità scientifica insieme al Ministero dell'Ambiente e così via dicendo. Ecco. Hanno piani di adattamento già molti paesi latinoamericani, appunto le piccole isole Stato, le Figi, adesso stanno cercando anche posti da portare i profughi climatici. L'Australia riconosce fra i tipi di profughi, come ci sono i profughi di guerra, anche i profughi climatici, diciamo così, bisogna evitare questo, quindi sostanzialmente adattamento significa rinforzare le difese, migliorare la manutenzione dei fiumi, non significa però per esempio mettere l'aria condizionata, perché mettere l'aria condizionata perché d'estate fa troppo caldo è un anti-adattamento, nel senso che da un lato ci adattiamo, ma dall'altro aumentiamo i consumi energetici, quindi adattamento significa invece per esempio coibentare meglio la casa e fare meno di aria condizionata e diminuire il fabbisogno di riscaldamento d'inverno. Questo certo. Sì, ed è una delle cose più importanti che possono essere fatti sul risparmio energetico. Luca, un'ultima domanda qui, probabilmente più che modelli matematici servirebbe la sfera di cristallo, ma come tecnici avete in mano già elementi per prevedere che estate aspetta l'Europa? Cioè, ci saranno sorprese spiacevoli in linea come è accaduto negli ultimi anni, secondo te? Ma non lo so, sulla singola estate non si può fare una previsione ben precisa. Certo ci sono delle ondate di caldo, anche questa è stata un'ondata di caldo anomala, quasi da record. Paradossalmente possiamo anche sfruttare in questi periodi gli elementi positivi, diamo anche una buona notizia, non è mio solito, ma pochi giorni fa in Germania c'è stato così tanto sole, il 15 aprile, che la produzione fotovoltaica ha toccato un picco di 22,68 gigawatt, che per intenderci sono 8 centrali nucleari. E quindi, vabbè, insomma, se ci sarà molto sole, significa che si produce più energia da fonti fotovoltaiche, e questo è avvenuto anche in Italia lo scorso anno. Quindi le fonti rinnovabili sono sempre una risorsa che sono su cui puntare, quindi se sarà caldo e se ci sarà sole, almeno prendiamo questo aspetto positivo. Okay. Grazie come sempre a Luca Lombroso, ricordiamo il suo libro Apocalypse Now, uscito da pochi mesi, attuale, semplice nel senso bello del termine, perché veramente offre gli strumenti per poter leggere il tempo e il cambiamento dei tempi, che credo che sia la cosa più importante da fare in questo periodo. Ciao Luca, grazie e buon lavoro. Ciao Federico, e grazie veramente. E questo grazie come sempre va a voi per essere stati in nostra compagnia, e va a tutta la squadra dell'Altra Europa, Miriam Lucchetti e Margherita Ina, che con me hanno scritto la puntata, Peter Bescapè in regia, Benedetta, di cui è la prima volta, non ricordo il cognome, aiutatemi. Acri, eccola qua, Benedetta Acri, che era con me oggi per la prima volta e quindi ero arrivato al nome, mi mancava ancora il cognome. Radio24.it, il nostro sito, l'altra Europa, @radio24.it invece, se volete scrivere direttamente alla redazione, vi ricordo Facebook, vi ricordo Twitter. Ancora ciao, ci vediamo sabato prossimo in diretta da Perugia. Buon sabato, da Federico Taddia. L'altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.